191. Donzelline. Farina, grammi 100, burro quanto una noce, latte quanto basta, un pizzico di sale. Formatene un intriso, né troppo sodo né troppo morbido, lavoratelo molto con le mani sulla spianatoia e tiratene una sfoglia della grossezza di uno scudo. Tagliatela a piccole mandorle, friggetela nel lardo nell'olio e la vedrete gonfiare, riuscendo tenera e delicata al gusto. Così avrete le donzelline che vanno spolverizzate con zucchero a velo quando non saranno più bollenti.